Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Quella sera, a letto, Ario pensava ancora alle cose che l'avevano sconvolto in quelle settimane. A volte gli sembrava che fosse tutto vero e lo prendeva un'angoscia che gli faceva perdere il capo. A volte, invece, era sicuro che Berto si era inventato tutto e si calmava e quasi rideva tra sé. Tuttavia, in quei momenti, gli rincresceva di dover rinunciare a godere la scena notturna dell'esame. Ma no, si diceva allora, quella notte, dopo che mamma ha fatto la spia, qualcosa deve essere successo. Non può non essere accaduto qualcosa. L'ubriaco. E rivedeva Lidia sul letto, tra le luci e le ombre sollevate dalla candela. Deve averla esaminata. Finì, suo malgrado, per accettare parte dei racconti di Berto e parte no. Mentre sua madre tardava a rientrare, egli s'addormentò e si destò più volte nella cameretta a fianco della cucina, ove da qualche tempo aveva il suo materasso. Nel sonno ora soffriva con un'oppressione al petto e ora godeva. Godette, infine, con tutte le fibre e sprofondò, si disciolse in un dolce tepore, senza svegliarsi più. Riaperse gli occhi udendo delle voci. E nel dirigersi al gabinetto scorse nel camerone, al di là della rastrelliera, e sbatté due o tre volte le palpebre mentre il cuore gli balzava in gola, un corpo di maschio nudo, atletico. Si ritrovò all'istante nell'andito della doccia, sul pontone della Virtus, accanto a Lidia e Berto, mentre Eneo si avanzava verso di loro, facendo schioccare i piedi sull'assito. «Sei pronto?» sussurrò una voce che stentò a riconoscere, calda. Eneo. Al di là della rastrelliera lo intravide ancora, vicino al letto, nella luce della lanterna che illuminò in quel momento il camerone, filtrando per gli scuretti socchiusi. Serrò gli occhi. Nel buio un ansito. Non poté resistere. Qualcosa urlava dentro di lui, barcollante. Con le tempie che gli battevano da fargli male, raggiunse tentoni, senza neanche preoccuparsi di non far rumore, la rimessa delle vele e dei cordami. Lì si abbatté nel primo cantone che trovò sgombero. Eneo. È venuto Eneo. Lo colse di nuovo una ventata di ribellione, quasi di pazzia. Strinse un remo che aveva trovato lì accanto, sino a rompersi le unghie, e si obbligò a non urlare. E a non balzare in piedi, a non schiantare qualcosa. Eneo, sua madre, si sentiva svergognato, violentato sino all'anima di fronte a tutti. E avrebbe, anche lì, al buio, nascosto il viso dall'onta. Si destò quella notte a tutte le ore e ogni volta, appena ricordava, il cuore prendeva a battergli precipitosamente. Restava a lungo tra la veglia e il sonno. Si ritrovava, piccolo, nella cucina di Berto e gli pareva di morire dall'angoscia sotto gli sguardi di tutti mentre risuonavano le parole che non aveva saputo trattenersi dal dire. Questa notte mamma ha dormito con un uomo e si ritrovava più grande nella sua cuccetta, rannicchiato contro la parete, coi denti che gli tremavano e le lacrime in bocca, mentre dietro la rastrelliera si alzava una voce che non aveva mai udita. «Hai un figliolo? E chi te l'ha fatto questo regalo?» L'indomani era rientrato da poco nella sua cameretta, nella cabina, e aveva finito di vestirsi, quando comparve sua madre, livida in faccia, quasi stravolta, e lo affrontò. «Ah, sei qui finalmente. Tutta la notte fuori, eh? Cominci presto!» e lo percosse in viso sull'una e sull'altra guancia. «Anche tu con quella troia lo scommetterei!» Ansava e le lucevano gli occhi. «Anche tu con Lidia, sino a quest'ora, ti ha già insegnato a scappare di casa!» «È possibile che creda questo?» si domandava Ario, sfuggendo il suo sguardo. «Che non sappia quando e perché sono uscito? E se anche crede che sia stato con Lidia, come ha il coraggio di rimproverarmelo?» Mezza discinta, la donna urlava: «Con quella troia, più vacca di sua madre! Bel cretino che sei! Non lo sai che va già con tutti? Scapparmi di casa, restar fuori la notte dopo i sacrifici che ho fatti per te!» «È pazza?» si domandava Ario, «o finge per la rabbia di sapersi scoperta?» E la guardava, dritto negli occhi, quasi a sfida. «Scommetto che le dai anche i soldi!» gli gridò a un tratto. In sottoveste le oscillavano i seni grossi e aveva un livido sulla spalla. «Da un pezzo non metti più nulla nel salvadanaio!» Si trovarono l'uno sull'altra, in lotta. Ario sentiva contro di sé due cosce muscolose, piene. Cadde riverso sul letto, ma riuscì a risollevarsi e a lottare ancora. «Devo vincermi», si diceva stringendo i denti. «Non devo bastonarla!» «Traditore!» gli sibilava la donna nell'ansito. Era livida, più che mai, e gli occhi le balenavano. Una spallina le scivolava e le mammelle le traboccavano, ma in quel furore pareva non se ne accorgesse. «Traditore, traditore, farabutto come tuo padre!» Lo aveva abbattuto di nuovo sul letto. Lo costringeva giù, puntandogli le mani dure contro le spalle e premendogli un ginocchio che le usciva prepotente dalla sottoveste sullo stomaco. Riuscì tuttavia un po' con la forza e un po' sgusciando di fianco a liberarsi. «Non parlare di papà, tu! Non parlare di papà!» le urlò avventandolesi addosso e afferrandola per i capelli. La donna, inaspettatamente, non alzò le mani per difendersi e non gridò e non si fece indietro. Ferma, parve attendere che egli la malmenasse. Lo fissava soltanto con gli occhi scuri, spalancati, enormi, sul volto livido. Ogni impeto di Ario venne meno. Lasciò cadere le mani, si ritrasse. Più tardi, solo nei pressi della lanterna, si stupiva ancora di più di quel grido. «Scommetto che le dai anche soldi!» Si sentiva, in quell'amarezza, lucido come mai, disperatamente acuto, consapevole, come se avesse ormai capito, penetrato da parte a parte, ogni cosa del mondo, e ne provava una specie di soddisfazione, squallida. Andava in su e in giù. Di quando in quando si sedeva sopra un cumulo di ferraglia o di sassi, ma subito riprendeva a camminare e si guardava attorno se non comparisse qualcuno, quasi timoroso d'essere scorto là, in quel prato deserto, dietro la lanterna. Era sicuro, fra l'altro, che tutto ciò che gli aveva raccontato Berto era vero. Rivedeva, in una luce cruda, nella luce stessa della realtà, tutte le scene che era andato immaginando via via che Berto gli raccontava. Sì, era vero. Tutto. Non poteva non essere vero. Ciò che aveva visto quella notte nel suo stesso camerone gli confermava che era altrettanto vero ciò che Berto gli aveva narrato di Lidia. Ed ecco, il pensiero gli tornava a sua madre, alla sfuriata pazza che gli aveva fatto quel mattino e a Eneo, come l'aveva intravisto quella notte, nudo al di là della rastrelliera. E di nuovo il cuore gli balzava in gola. Al ritorno, quando il cannone aveva già sparato il colpo di mezzodì, lo colse suo malgrado un pensiero di cui più tardi ebbe vergogna. Forse è meglio così. Eneo adesso lascerà in pace Lidia. E si sentì, senza quasi aspettarselo, un po' sollevato. Dovevo capirlo, si disse quando giunse alle canottiere e corse con gli occhi al profilo bianco della Virtus. Se mamma spiava a quel modo Lydia e l'ha poi denunciata, sotto doveva esserci qualcosa. Tutto era chiaro, adesso. Ricordava ogni atto di sua madre, quel suo guardare verso la Virtus e quell'allontanarsi in fretta appena si accorgeva d'essere scorta da lui, e certe domande di Eneo, e la stessa amicizia inaspettata di Eneo per lui. Eneo non lo avrebbe più guardato in muso, non gli avrebbe più detto parola. E come gli sarebbe piaciuto che tre o quattro canottieri tra i più forti, anzi, l'intero armo della Iole a otto, trovassero un giorno da dire con lui e finissero per cazzottarlo, lì, sulla zattera, davanti a tutti. Sarebbe stato bello coglierlo quando si pavoneggiava con quelle sue mutandine che si vedevano appena. Spogliarlo, magari, nudo, e buttarlo a terra, pestarlo, svergognarlo, e che sua madre, impotente, stesse ad assistere dall'altro pontone. Scoperse con piacere che i giovani canottieri della Virtus e proprio i nuovi atleti, i vogatori da regata, quelli che già superavano i migliori anziani, sparlavano e ridevano apertamente di lui senza timore. «Si infiacchisce», diceva uno. «Diventa femmina», insinuava l'altro. «Non ha più spirito agonistico», erano d'accordo tutti. Pure, a veder crollare in quel modo il prestigio di Eneo, egli si sentì anche ferito e desiderò inaspettatamente, dentro di sé, che Eneo si riprendesse al più presto e tornasse a scorno di tutti quello di un tempo, esaltato, temuto, l'idolo della Virtus. Ma furono pochi istanti. Subito quell'impeto dileguò. Egli si sentì ferito da Eneo stesso in ben altro modo e godette di vederlo precipitare fra le beffe dei nuovi atleti dal suo piedistallo di un tempo. Sua madre, in quei giorni, trascorreva intere ore in casa, sola nel camerone. Seduta curva sulla sponda del letto, accanto alla finestra, appena egli entrava, nascondeva qualcosa. Riuscì infine a vedere. Cuciva. Scorse anche un lembo del tessuto, che era di color rosa e spugnoso. Uscì per non doversi vergognare dell'imbarazzo che l'aveva presa. Egli evitava ormai anche di incontrarsi con Lydia. Dopo ciò che aveva veduto quella notte nel camerone, provava anche per lei soltanto disgusto. Appena ricordava che ella era stata in cabina con Eneo, si sentiva cogliere da una vertigine fredda e lo sconvolgeva un livore impotente. In quel malessere imprecava a sua madre, quasi fosse responsabile anche di ciò che faceva Lydia e a tutte le donne. Un giorno, che era solo sul ballatoio e si ingegnava a rimettere le lamine alle pale di due vecchi remi, la ragazza gli si sedette accanto. Finse di non vederla, intento al suo lavoro. «Ho capito», gli disse Lydia dopo un po', «che fai apposta». «Ma perché? Non siamo amici?» Sollevò gli occhi e la fissò. «No», rispose, «non lo siamo mai stati». «Ah!» fece Lydia e tentò di ridere. Di lì a poco si alzò fischiettando. «Ciao!» disse e andò via. «Vacca!» pensava Ario, con un impeto e un rancore come se avesse fatto lei quello che non riusciva a perdonare a sua madre. Si è divertita con tutti e ora che Eneo non la guarda più crede di poter fare la stupida con me. Gli sembrava di poterla disprezzare e la sentiva davvero diminuita proprio perché era stata abbandonata da Eneo. Che cosa contava ormai? Che cos'era? Una ragazzetta cresciuta sui pontoni che si era data delle arie ma che doveva calare le ali, che era andata con tutti ma cui nessuno più badava. Anche Eneo l'aveva lasciata, egli lo sapeva, e nessuno, forse nemmeno lei stessa, poteva saperlo meglio di lui. Abbandonata da Eneo, tanto grande gli era sembrata quella sua conquista, e altrettanto, se non più, ella gli appariva diminuita per quell'abbandono. Gli pareva, adesso, l'ultima ragazza del porto. Ella volle tornargli ancora accanto, e gli fece questa volta addirittura pena. Dici sul serio? Gli domandò sorridendogli vicina. Che non lo hai mai desiderato? Che cosa? Lidia rise e lo guardò negli occhi e lui sentì soltanto pena e tristezza e anche fastidio. Di baciarmi? No, rispose, ed ebbe non il piacere di umiliarla che avrebbe provato un tempo, ma vergogna per lei. Sentiva, vicino a Lidia, dopo le ultime vicende, quasi un'impressione di schifo che gli gelava ogni impulso. Tutto di lei gli sembrava meschino, se non ripugnante, e gli appariva miseranda ormai anche quella scena notturna dell'esame che settimane prima lo aveva sconvolto. Rivide più volte quei giorni anche Eneo, e con sorpresa, incontrandolo faccia a faccia, non sentì più quel rancore, quell'impeto cieco d'ostilità e di rabbia che aveva provato quella notte pensando a lui. Evitò tuttavia di farsi fermare. Appena lo intravedeva, affrettava il passo e guardava altrove. E gli crescevano in quei momenti i battiti del cuore. Un mattino, che si trovava sul terrazzo del suo pontone, intento a riparare le sartie dell'albero, gli parve di notare lì sotto, sulla zattera della Virtus, un movimento insolito. I canottieri correvano uno per volta nella rimessa e dopo un attimo uscivano sghignazzando. Gli altri, raccolti in crocchio sulla cima della zattera, si voltavano di tratto in tratto a guardare verso la rimessa. Quello che era andato a vedere, appena raggiunti i compagni, raccontava qualcosa, animato, e tutti tornavano a sghignazzare. «Che cosa succede?» si domandò Ario. A un certo punto il crocchio si ricompose. Le espressioni si fecero serie, rimanendo però accesi, maligni tutti gli occhi. Alcuni si voltarono verso il mare, altri si allontanarono, ma i più stettero a guardare, in attesa, verso la porta della rimessa. «Ora vedrò», si disse Ario. Vide, infatti, e sentì una fitta. Eneo usciva, pretenzioso, superbo, con un accappatoio che gli giungeva sino alle calcagna. Ma ciò che agli occhi di Ario parve addirittura inverosimile fu il colore di quell'accappatoio, un colore rosa tenero, delicato, da donna. Capì, mentre gli durava quella fitta, le risa dei canottieri, e si vergognò per Eneo, e più ancora, atrocemente, con un misto di ribellione e di pena, per sua madre che doveva averglielo regalato. Guai se sulla zattera venivano a saperlo. Gli pareva che a Eneo sarebbe stato bene, semmai, un accappatoio rosso, come l'aveva veduto indossare prima dello spettacolo, durante quella serata indimenticabile, al domatore. Vivo come una fiamma, gli aderiva rivelando tutta la robustezza della persona e gli lasciava liberi i polpacci. Con quella tunica rosa, Eneo, pettoruto, gonfio il collo, piccoli e opachi gli occhi, si avanzò in uno strano silenzio, sino in mezzo alla zattera. Fu allora che la voce di un ragazzino, un piccolo timoniere, Ario lo conosceva poco, ma si ricordava che aveva un cognome greco, gridò: «Buongiorno, Enea!» E le risate scoppiarono da ogni parte. Eneo fece come se non avesse udito. Girò due o tre volte per la zattera con gli occhi ancora più opachi, il collo gonfio e le sopracciglia corrugate unite sotto la fronte bassa. Poi si avviò verso la rimessa. E ad Ario, per di dietro, con quell'accappatoio rosa sino alle calcagna, sembrò più ridicolo che mai, come la caricatura di un imperatore romano che aveva visto al cinema. E di nuovo egli pensò a sua madre e sentì una fitta. Mentre l'atleta rientrava, il piccolo timoniere lo rincorse e fece l'atto di sollevargli e reggergli lo strascico. Eneo si volse e gli lanciò un'occhiata, ma non capì e scomparve mentre si rinnovavano le risate. Musiche degli Esmerin, Sprouts, The Space in Between, dei Clogs, Compass, Colony Theme, dei Pullman, Hatta, dei John Metcalf, Parcel, ad accompagnare questa lettura dell'Onda dell'Incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini, la voce è quella di Ferdinando Bruni, il ciclo di Ad Alta Voce è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone alla regia. Le puntate sono riascoltabili sul nuovo sito raiplayradio.it.